Radiazione, diretta d'azione 13 dicembre 2013. È finito pure quasi l'after Maya. Stiamo andando oltre tra 15 di giorni. Allora, oggi diretta d'azione con controinformazione, qualche riflessione, qualche discussione, musica. Lo ricordo che invece il lunedì è la giornata dove si fa, oltre alla controinformazione e alla musica, la lettura. Stiamo leggendo Valerio Evangelisti, l'ennesimo libro di Valerio Evangelisti, e stavolta si tratta di Pirati. Dopo la trilogia sul metallo dell'anno scorso, quest'anno è la volta dei Pirati, si farà la trilogia dei Pirati. Ora non si sa se si farà tutta insieme, tutta una dietro l'altra, oppure si spezzerà con qualche altro libro. Tant'è che stiamo leggendo Veracruz, quindi l'appuntamento lo do da ora per lunedì prossimo, ora è 13, 14, 15, 16 dicembre. Allora, ricordiamo anche gli indirizzi utili per radiazione, radiazione@distici.org per la mail, per chi vuole inviare mail, comunicati, scritti, locandine, iniziative, richieste di fonti ci arrivano anche dalle ditte che costruiscono microspie, non solo ce le installano, poi chiedono anche la pubblicità, invece per il blog redazione.noblogs.org, dove c'è la controinformazione aggiornata quasi quotidianamente, dove si possono scaricare anche opuscoli, cd, manifesti e quant'altro. Più se ne avrà a disposizione, più se ne metterà anche in futuro. Per la radio, redazione.listensumaradio.com, o altrimenti attraverso il banner che trovate in home page su Redazione, ci cliccate sopra lunedì e venerdì dalle 17 alle 19 e ascoltate la diretta d'azione, altrimenti ve la ascoltate attraverso la categoria Ascolta le dirette d'azione, dove trovate tutti i podcast delle dirette vecchie fino a quella di lunedì. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Numb con il brano Life, e poi si inizia subito con la controinformazione. è morto un compagno durante una rapina al Banco Estado in Cile. La premessa a questa notizia è che la morte di Sebastian è arrivata già ieri pomeriggio, però si è atteso per pubblicarla sotto la richiesta di alcuni compagni cileni. Passiamo alla notizia. Ieri circa 9.30 è stato colpito a morte il compagno Sebastian Oversluis Seguel, 26 anni, mentre con altri due compagni si stavano preparando a rapinare la banca Estado in Avenue Estrella, nel comune di Pudahuel. Sebastian è stato ucciso da colpi dello sbirro che stava a guardia dei locali della banca, che ha sparato sul suo corpo almeno 6 proiettili. Altri due compagni sono stati arrestati mentre tentavano di scappare, i compagni Alfonso Alvial, di 27 anni, e Hermes Gonzalez, di 25. I compagni detenuti sono passati oggi al centro di detenzione, nel centro di ingiustizia cileno, alle ore 12 del 2013. Durante la notte sono stati perquisiti diversi posti, uno di loro la casa dove vive il padre di Sebastian. Inoltre li vogliono accusare, i due compagni detenuti, per altre rapine effettuate quest'anno nello stesso luogo e anche delle altre azioni di natura politica, in quanto sono già stati arrestati per alcune iniziative in strada a sostegno dei compagni che a quel momento erano coinvolti nel processo giudiziario noto come il caso Bomba. L'appoggio con i nostri compagni è totale, possiamo capire il momento terribile che stanno attraversando quelli più vicini. Noi abbiamo avuto l'audacia di informare i nostri compagni nel mondo su questa notizia. Azioni di solidarietà e anti-autoritari abbracciano questi compagni. Siamo arrivati a questo. Compagno Sebastian Oversluis Seguel presente. Libertà per i compagni Hermes e Alfonso. Un saluto a Sebastiano, ma anche da parte di Radioazione, che questa morte serva per caricare ancora di più la rabbia dei refrattari e non per farne un'altra vittima della repressione. Beh, questa relazione serviva, vabbè, sia per fare saluto a Sebastian e sia per come suggerimento che non sia un altro morto. Un culto della carogna. Sì, un altro culto della carogna, come era accaduto con Paghi Mauri, come è accaduto con Lambo Spundas, come è accaduto per altri compagni che sono morti nei tempi passati e di cui ogni anno c'è la ricorrenza. Se non trasformiamoli nei martiri. Quindi cioè, sarebbe bene prendere queste morti una volta che ci sono come un punto da dove ripartire ancora più forti, ancora più carichi di rabbia. E allora, e questa era per quanto riguarda, era stato già scritto che praticamente la notizia è arrivata ieri pomeriggio, però alcuni compagni prima di pubblicarla, i compagni cileni che ci avevano avvisati della morte di Sebastian, ci avevano avvisato di non pubblicare ancora la notizia, visto che si aspettava un po' di conferme, un po' di cose che erano accadute, c'era la notizia però ancora non si sapeva bene il tutto. Quindi è accaduto ieri. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Leader Strip con il brano Adrenaline Rush, e poi dopo si torna qui con la controinformazione. E questi erano Leader Strip con il brano Adrenaline Rush. Ora si continua con la controinformazione dopo la prima brutta notizia sulla morte di Sebastian in Cile. Ritorniamo sempre in Cile per qualcosa un pochino più di carino, per riprenderci anche dalla prima notizia. Si tratta di un'azione solidale con Monica Caballero e Francisco Solar. Leggiamo direttamente il testo. Con questa azione solidale mandiamo un saluto a Monica e Francisco, che resistono nelle prigioni del potere, perché crediamo che la lotta contro la società carceraria deve essere propagata come parte della lotta contro tutte le forme di autorità. Le distanze non dovrebbero diminuire, la solidarietà è irriducibile con chi si vive sulla propria carne la punizione dei potenti per essersi opposti al sistema di dominio e di controllo che lo sostengono. Con questa motivazione siamo usciti in strada la notte di giovedì 5 dicembre, interrompendo il traffico in due punti sulla Avenida Bernarda O'Higgins, la Amenada, la principale arteria stradale della capitale del Cile, con barricate e propaganda contro la società carceraria in solidarietà con i nostri compagni che sono in prigione. Abbiamo fatto un appello per continuare le azioni solidali che mirano alla distruzione delle carceri, carcerieri e tutte le forme di potere e autorità. Con questo gesto abbracciamo alla distanza Monica Caballero e Francisco Solar e di tre compagni che furono arrestati la mattina del 13 novembre in Spagna, accusati di partecipare all'attacco esplosivo contro la Basilica del Pilar a Saragozza, un'azione rivendicata dal comando insurrezionale Matteo Morral. Che la solidarietà internazionale verso i compagni si faccia sentire. A 3 anni che 81 prigionieri morirono in incendio nel carcere di San Miguel, noi non dimentichiamo né perdoniamo, che lo sappiano i secondini e le loro istituzioni. Fratelli, salute a José Miguel Sánchez, che al tempo della nostra azione era in sciopero della fame contro le tasse, le tasse di trasferimento. Questo è stato un mio errore. Contro il trasferimento in carcere, dopo essere stato accusato di minacce dirette ai detenuti, minacce dirette ai carcerieri. Purtroppo nella traduzione ho lasciato qualche parola che non è stata corretta, non lo so perché, ma non è stata corretta, poi la correggerò dopo. Salutiamo Carlos Guterres Quindileo, compagno che sta in carcere dopo 6 anni di clandestinità, è accusato per un assalto in banco e l'omicidio di un agente di polizia Casa Security. Abbracciamo la sua decisione di combattere, il suo coraggio e la solidarietà. Salutiamo anche i compagni imputati nello stesso caso, Marcello Villarroel, Juan Freddy Fuentavilla e Juan Alisse. Salutiamo anche i compagni Anthony Meyer, Alberto Olivares e Nicola Sandoval, il compagno Mario in Messico, il sciopero della fame, Nicola Gai, Fredo Cospito, Gabriel Piombo da Silva e tutti i compagni detenuti nelle gabbie del potere in tutto il mondo. Non si fermi la solidarietà irriducibile tra i rivoluzionari, che l'attacco sia permanente fino a distruggere l'ultimo baluardo della società prigione, prigionieri e prigioniere in guerra di tutto il mondo liberi, solidarietà internazionalista, solidarios insurrectos. Questa era la firma, solidarios insurrectos. Poi sotto ci sono anche le immagini, foto prese da un altro blog, dove è stata presa e tradotta la notizia, tradotta pure male, lo dico, lo ammetto, mi sono dimenticato di correggere alcuni punti fatti dal traduttore. Allora lo spieghiamo ancora una volta: normalmente per fare le traduzioni si approfitta del cazzo traduttore di Google per fare una prima traduzione, poi dopo si legge riga per riga e si va a correggere tutte le righe sbagliate del traduttore. È una cosa per non riscrivere tutto il testo. Infatti poi non lo so perché, ma due righe o saranno saltate, mio errore, che ammetto, e verrà corretto al più presto, al limite già subito dopo la diretta. E questa era per quanto riguarda il testo che ci arrivava dal Cile. Ora ci ascoltiamo un brano di Well Herdable con il brano Subfighter F1046 e poi dopo si torna qui e si continua con la controinformazione. Schwächen, doch das Fahrwerk fährt nicht aus. Gefangen in der Welt der Technik, gefangen in einem Sarg aus Stahl. Dies ist mein letzter Flug in meine Ewigkeit. Doch ich habe keine Angst, denn du bist bei mir. Retract landing gear. Du bist bei mir. Aggiornamenti su Marco Kamenisch. Dal carcere di Lenzburg ci informa che gli è stato notificato l'ennesimo rifiuto alla concessione della libertà condizionale, a cui potrebbe già aver avuto accesso da tempo, visto che ha già scontato i 2/3 della pena inflittagli dai tribunali elvetici. Diffondiamo un estratto dalla sua lettera. Questa volta il rifiuto viene dal TAR. A dire il vero, ne ho piene le palle di occuparmi delle solite prolisse cretinate repressive, in cui anche il TAR approva semplicemente tutto quanto già espresso dai suoi degni compari, con l'unica aggiunta di una grettezza e malignità di più. Mi aspettavo senz'altro una conferma della negazione, ma a dire il vero, perlomeno una punta di serietà nel trattamento degli argomenti della difesa. Con questo, in pratica, vanno di filato verso l'internamento a posteriori, a fine pena, come prospettiva reale più probabile. Ecco l'unico elemento di rilievo. Sempre a fianco di Marco, contro tutte le galere, cassa antirepressione delle Alpi occidentali. No, prima di passare a Matteo, facciamo, chiariamo le ultime due righe che ha scritto Marco, che praticamente si avviano alla detenzione, cioè, come diceva, l'internamento a posteriore, a fine pena. Praticamente in Svizzera esiste una legge con cui la magistratura a fine pena decide se il detenuto può uscire o deve continuare a rimanere in carcere per svariati motivi, per sul fatto che non è stato recuperato secondo loro, che la persona ha continuato ad avere certi atteggiamenti, e quindi c'è il pericolo che per Marco non ci sia il fine pena tra qualche anno, ma possa continuare. Ora andiamo avanti con un altro aggiornamento, cioè non è proprio un aggiornamento, è una notizia degli arresti a Torino e a Milano. Ancora arresti e perquisizioni per quanto riguarda il movimento Noctave a Torino e Milano. Il 9 dicembre di mattina gli sbirri hanno fatto irruzione in due centri sociali a Torino. Si tratta dell'asilo occupato ed un'altra occupazione a scopo abitativo a Porta Palazzo. Alle 5 del mattino gli sbirri hanno fatto irruzione nei due posti occupati. Per ora non si hanno ulteriori informazioni, portando via due compagni che erano sottoposti a fogli di via. Insieme a loro vengono arrestati i compagni Chiara Zenobi e Claudio Alberto. Chiara, Claudio e Nicolò, già detenuto da fine ottobre per non aver rispettato un obbligo notturno e per resistenza pubblico ufficiale, sono accusati di un'azione avvenuta a maggio in Val di Susa contro la TAV. A Milano un altro compagno, Mattia, che porta avanti insieme ad altre individualità il progetto del sito Radio Cane, è stato perquisito ed arrestato con le medesime accuse. Per scrivere ai compagni potete trovare l'indirizzo sul blog di Radio Azione. Forse è la prima volta che appare gli arresti di Notav sul blog di Radio Azione. È stato messo perché, vabbè, onestamente si conosce una compagna, una compagna che è Chiara, si conosce Chiara, altrimenti io molto spesso evito di andare a ficcare il naso su quella che è la lotta Notav in Val di Susa, lotta che io, cioè, contro la Notav lo sono anche io, ma come viene portata la lotta ne sono ben distante, non sono d'accordo su come si porta quella lotta avanti in Val di Susa, sul fatto che la TAV ha distrutto tutta l'Italia e la gente continua a rimanere solo in Val di Susa, è diventato un simbolo di lotta per il proprio, come direbbero in inglese, not in my backyard, cioè praticamente una lotta per il proprio giardino. Anche se poi da là arrivano tanti compagni come Chiara, che Chiara è di Teramo, come tanti altri compagni che arrivano pure dal sud Italia, che fanno queste salitone fino alla valle per fare questa lotta al trenino, che oramai non c'è, passa dappertutto in Italia. L'unico punto dove partirà, anche tra qualche anno, lo so, quando partirà il treno, passerà da quelle zone, visto che la trivella l'hanno messa in azione già da un mese, quindi passerà. La cosa più assurda, lo ripeto, è che nel frattempo di problemi uguali alla TAV in Italia almeno se ne è pieni. Si continua a parlare della TAV, si continua a parlare della TAV, secondo me se ne continua a parlare perché alcuni elementi stanno cercando un po' di farsi anche un po' di carriera politica all'interno di quel movimento, di autopromuoversi, sì, di autopromuoversi, di avere l'ennesima conferma di fare i capigruppo in un movimento che secondo me è un movimento che poi hanno, tra l'altro si è saputo pure che una parte del movimento Notav ha preso le distanze dagli arresti dei compagni, quindi forse adesso riusciranno a capire, comprendere quanto è cittadinista questo movimento. Infatti. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Beborn Beton con il brano Torture e poi dopo si torna qui e si continua con la controinformazione. We'll be right back. Allora erano Bibon Beton con il brano Tour, ora si continua con la controinformazione, a parte le stronzate che faccio, vabbè. Allora, la controinformazione più altro è una mail che forse si presta a diventare la mail più bella, votata come mail più bella arrivata a Radiazione nell'ultimo anno. Mi leggo il testo che forse qualcuno ha già letto sul blog di Radiazione. Qualche giorno fa, con il mio immenso stupore, è arrivata una mail alla posta elettronica di Radiazione. Tutto normale se si pensa che la mail è resa nota per permettere a qualsiasi compagno di inviarci news di controinformazione e anche critiche. Non ve ne approfittate, vi manda troppe critiche. Spesso da qualche sito o blog è stato anche chiesto di mettere la fonte sotto il testo preso, cosa che tra l'altro che Radiazione fa normalmente, ma che critica fortemente perché si pensa che la controinformazione non sia un diritto d'autore. Ma comunque, nonostante ciò, la si pone sempre alla fine di ogni articolo. La cosa che mi ha lasciato allucinato è stata quella di ricevere una mail da parte di una ditta che vende microspie. Avete capito bene, sì, che vende microspie. Ebbene, attraverso la mail, costoro che sono la fonte da dove si abbeverano i nostri depressori e controllori per spiarci nelle auto, nelle strade, nelle borse, nel cesso, la cucina, in camera da letto e soprattutto dietro al letto, hanno chiesto espressamente di mettere la fonte del loro sito da dove si erano presi e postate alcun tipo di microspie con tanto di descrizione. Penso che questa è la prima volta che accade una cosa del genere. Forse negli ultimi anni la magistratura, polizia e carabinieri non hanno mai rimborsato le microspie, molto spesso prese in affitto, ritrovate da compagni in Italia e distrutte immediatamente, come è logico fare. Quindi ora chiedono la fonte del loro sito per farsi un po' di pubblicità, che Radiazione metterà a disposizione di tutti i compagni, così che possono rendersi conto, ancora meglio, laddove ce ne fosse ancora bisogno, che i nostri spioni hanno dei negozi proprio nelle nostre città. Per il resto non resta che farsi una grande risata dinanzi ad una cosa del genere. Ma nel frattempo ricordiamo a questi investigatori privati, tra l'altro molto spesso ex sbirri o sbirri che intestano le loro ditte a mogli e figli, proprietari di tali negozi e ditte, che alla stregua dei loro colleghi in divisa sono nostri nemici. Se accadrà qualcosa a blog di Radiazione sapremo il perché, ma allo stesso momento si conosce il sito, completo di indirizzo e numero telefonico, quindi agli spioni cornuti non si può che lasciare un chiaro messaggio: Radiazione non collabora con gli sbirri e chi ci controlla nel quotidiano, e se l'aver copiato testi e immagini apporterà danni al blog, beh, a buon intenditore, poche parole. Leggiamo la mail, vi leggo anche la mail che è arrivata, visto che ci siamo. Mail inviata da un tale Michele Gioia della End Europe, tecnologia per la sicurezza e la sorveglianza. Buongiorno, abbiamo riscontrato una pagina sul vostro blog, e poi mettono il link, che riporta esattamente testi redatti dalla nostra azienda, nonché le foto da noi utilizzate. Pertanto vi chiediamo di citare gentilmente la fonte, che è endacustica.com, lo ricordiamo, così ci andate a dare un'occhiata, o in alternativa a rimuovere al più presto l'intero contenuto duplicato. Aver copiato testi ed immagini apporta danni sia al vostro portale che al nostro. Grazie per la collaborazione, Endacustica Europe SRL. E doveva finire con una vernaccia questa mail. Penso che sia arrivata al limite, cioè, ma non capisco il motivo per cui loro pensano che esiste una collaborazione, cioè già anticipando il grazie, cioè, si sono fatti un giro per il blog, aver solo visto i titoli potevano dedurre che non ci potrà mai essere nessuna collaborazione. Vabbè, ma rispetto agli anarchici che sono informali, gli sbirri sono molto formali e quindi ti ringraziano anche per la collaborazione che ho cazzo gli daremo, cioè la Radiazione ha collaborato, gli ha messo il link di Endacustica, l'ho lasciato perché se volete ci andate a cliccare sopra e andate a vedere quanto schifo vende questa ditta, quanto ne costruisce pure, quando ne dà in dotazione alle forze dell'ordine per farci spiare nel quotidiano. Ricordiamo, questi negozi uno ce n'è anche a Napoli, mi sa che si chiama Detective Mania, una cosa del genere. Sta in via Ghiaia, per chi vuole andare a vedere Detective Mania, via Ghiaia. E praticamente là potete andare ad aggiornare da vicino sulle novità, le nuove microspie. Io avevo visto tipo barattoli di Coca-Cola con microcamere, cioè uno sta seduto in pizzeria, quell'altro a fianco si sta mangiando la pizza, beve la Coca-Cola, tu cazzo vai a capire che quella è una telecamera, invece ti sta riprendendo. O accendini, ma gli accendini quelli da un euro, il Bic, il classico Bic trasparente con microcamera e microfono all'interno, ce n'è di tutti i tipi. Quindi a chi fa piacere può andarsi a fare un giro in questi negozietti e andare a vedere e constatare da vicino lo schifo che vendono queste persone, che tra l'altro persone sono, la maggior parte sono guardie giurate, guardie private, ex sbirri, sia carabinieri e polizie, o se non sono ex sono ancora in servizio, intestano le ditte alla moglie e ai figli giusto per arrotondare lo stipendio. Insomma, questa era dovuta, cioè, questa penso la premieremo come la mail più bella radiazione. Ma non saranno invitati a... Non saranno invitati, loro si invitano da soli, normalmente si piazzano nelle case, si piazzano dietro un letto, si piazzano sotto un tavolo, dietro nel cesso, e sono presenti da di noi, no? Quindi... È una collaborazione a distanza. È un collegamento, sai come si fanno le trasmissioni? Allora ora ci colleghiamo con la questura di Napoli. Allora, fategli le cazzate che stiamo sparando, però comunque. Cioè, caro Michele Gioia, renditi conto do cazzo sei andato al sbatterti, cioè. Se hai letto il blog puoi capire che non è stata la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima che in cui si verrà a prendere le tue microspie dal sito e si verrà a postarle sul blog di redazione, perché è giusto che i compagni che normalmente subiscono la violenza dei tuoi prodotti ne vengano a conoscenza. Ora ci ascoltiamo un brano, Circle of Dust, con il brano Nemmeno con la posta, Technological Disguise, e poi dopo si torna qui e si continua con la controinformazione. rather discretion should be exercised. Comunicato dal Cile sul fine sciopero della fame di José Miguel Sánchez Jiménez. Alle forze vive e coscienti. Siano queste mie prime parole un saluto fraterno e complice ad ognuna delle individualità che, nell'una o un'altra forma, si sono manifestati in gesti ed azioni per appoggiare la mobilitazione di sciopero della fame che ho annunciato il giorno 27 novembre 2013. Per distinte ragioni che ora non elenco, mi fu impossibile comunicare il desistere o fine di questa mobilitazione, situazione che oggi, per mezzo di questo scritto, rendo noto a voi, ringraziando sinceramente per l'appoggio e diffusione di questa azione, facendo notare che il vostro appoggio è stato significativo e mi ha dato forza. Oggi mi trovo detenuto nella calle 9 dell'ex penitenziario di Santiago, luogo dove fui accolto da persone che mi conoscono e stimano, dove pretendo di stare fino a termine della condanna che mi hanno imposto il 27 febbraio 2014, sempre se i carcerieri non decidano un'altra destinazione. Riaffermo la mia infrangibile opzione di lotta con tutto e contro ogni segno di autoritarismo. Non sono né sarò vinto, ci sto dentro più che mai ed in permanente lotta. La mia maggiore preoccupazione sono i miei fratelli che continueranno a rimanere in prigione quando arriverà l'ora per me di abbandonare questa società carceraria. Con loro sto solidarizzando e frequentando, accompagnandoli, che sentono che dietro di loro esiste un universo di guerrieri disposti a fare l'impossibile per la loro liberazione. Ad ognuno di loro un abbraccio complice, forza, appoggio e amicizia. Fraternamente il vostro José Miguel Sánchez Jiménez, dicembre 2013. In nota si aggiunge, per chi desidera solidarizzare con il compagno, egli sta ricevendo cibo da lunedì a domenica, eccetto sabato dalle 9 alle 12 e dopo dalle 14 alle 16. Le visite invece sono ogni sabato dalle 14 alle 17. Questo prima tu per casomai per qualche compagno italiano che si trova da quelle parti o che sta andando in Cile prima del 14 febbraio, data di liberazione di José Miguel Sánchez. Questa era la notizia che ci arriva dal Messico. Invece prima avevamo parlato di microspie, mi ero dimenticato, ho messo una nota, una errata corrige, come si può dire, su un articolo apparso qualche tempo fa sulla reazione, il 22 novembre, l'ho messa oggi, quindi mi ricordo pure su cui si parlava di microspie ritrovate a Napoli. Io avevo scritto che erano state trovate dopo l'iniziativa con Alfredo Maria Bonanno, invece c'è stata una, sia una mancata che una sbagliata comunicazione tra me e qualche compagno che sta a 76 anni, e quindi automaticamente in base anche alla sbagliata, erronea comunicazione avevo scritto certe cose. Ora si è corretto e finiamo qui. Abbiamo fatto chiarezza pure su questa cosa. Ora ci ascoltiamo un brano, il brano è Abattoir con degli X-Mark The Bedwalk, e poi dopo si torna qui e si ritorna con la controinformazione. Allora, dopo Abattoir di X-Max The Bandwalk, continuiamo con la controinformazione. Oggi si resta in Cile, ci siamo trasferiti in Cile. Potevamo fare benissimo una diretta da Santiago, visto che la maggior parte delle notizie arrivano da là. Qualcuna, cioè una pure bruttissima, qualche altra carina e un'altra molto bella, tipo questa qua che andiamo a leggere ora, che praticamente è collegata pure alla prima, non lo so se è lo stesso banco, però comunque è la stessa città. Cile, attaccato il banco è stato. Leggiamo direttamente il testo rivendicativo, poi dopo andiamo a leggere quello che avevo scritto io prima. Il Consejo Guerrillero Urbanus Regional Claudio Lavazza lanza panfletos, rivendica la responsabilità per l'attacco agli uffici del Banco Estado nella mattinata di oggi. Parliamo con il linguaggio della polvere nera e di gas butano, senza la necessità di rifugiarsi in scuse e timori paralizzanti che dominano la maggioranza degli oppressi. Lottiamo contro l'ordine e le leggi dei capitalisti, attacchiamo l'amnesia democratica del potere. Siamo in guerra a morte per distruggere la società borghese e le sue tradizioni. Abbiamo armi ed esplosivi che non controllano nessuno, né lo Stato né qualsiasi gruppo gerarchico. Siamo sempre esistiti, siamo la gioventù ribelle, studenti, vandali, vandali recuperati e formiche, sabotatori frenetici, falsificatori degli strumenti pubblici, antipatriotici, vecchie individualità, antisociali compulsivi, pigri disoccupati, ex reclusi, ispirati creatori del caos. Ci associamo alla CGUI. CLLF, che non ho capito cosa significa, per attentare alla tranquillità dei soldati della classe dominante. In questa azione hanno partecipato gli insorti anti-autoritari di altre cellule autonome che si sono incontrati e deciso di organizzare un gruppo di attacco, lasciar perdere il linguaggio dei libri, incrementare le coscienze del sabotaggio, perfezionare la mira, studiare tutte le aree di conflitto, coordinare gli atti di guerra, appoggiare i perseguitati, punire gli oppressori, accompagnare i nostri prigionieri ed essere parte della lotta anticarceraria e tenere in vita i nostri morti. Saluti i combattenti e ai compagni del Caso Security, Freddy, Marcello, Juan, Carlos, Vitens, Chidileo, simboleggia tutto l'odio dello Stato che li tiene detenuti, senza processo e in attesa, nelle parole della loro famiglia, a vista e pazienza di una società indolente, siamo con loro compagni, non lasciamoli soli. Ad Anthony Meyer, Monica Caballero e Francisco Solar, siamo con tutti i detenuti della guerra sociale nel mondo, moltiplichiamo gli attacchi contro il potere, incrementiamo il sabotaggio contro la pace sociale, guerra sociale su tutti i fronti, fuoco alle prigioni, estendiamo la lotta sovversiva e autonoma e anti-autoritaria. Consejo Guerrillero Urbano Insurrezional Claudio Lavazza lancia panfletos. E questo era il testo tradotto pure poche ore prima di iniziare la diretta, che arriva dal Cile. Io ho messo una breve nota introduttiva, ve la leggo. Di seguito il testo rivendicativo, in cui oltre a solidarizzare con i compagni detenuti e una ricerca di mezzi e metodi, ancora una volta compaiono termini che già da un paio d'anni hanno cambiato il linguaggio dei compagni anarchici: guerra, onore, fratelli e sorelle. Laddove nemmeno ci si conosce, l'unico punto sicuro di unione è la pratica, ricordare i morti, eccetera eccetera. Tutti termini su cui bisognerebbe riflettere sull'uso, anche perché sono termini che almeno in Italia e in qualche altra parte della UE sono utilizzati da gente che non ci sta proprio simpatica, e parlo indiscriminatamente delle due zanzare che da secolo succhiano sangue alla terra attraverso le loro dittature. Questa mia breve introduzione vuole essere un inizio di dibattito in cui io stesso cercherò di approfondire senza offendere e senza criticare nessuno. Ovviamente poi siamo tutti individui e ognuno decide come agire e come parlare. Ne parlavamo qualche giorno fa proprio di, sì, di questo linguaggio nell'ultimo tempo che sta sempre più prendendo piede, che secondo me è un linguaggio che almeno su questi territori una parte dell'Europa è stato utilizzato dall'estrema destra, un linguaggio abbastanza anche dall'estrema sinistra, anche dall'estrema sinistra, o comunque un linguaggio molto, direi, molto rigido, molto militarista quasi, non so, utilizzo anche dei onore ai caduti. Cioè, io sinceramente, che provengo da un paese socialista, questione onore ai combattenti caduti, a me è un linguaggio tipicamente comunista, e dall'altra parte questo richiamo alla guerra, richiamo continuo alla guerra. Io non capisco, è guerra sociale, non è, ma si chiama guerra, oramai è diventata sì. Guerra, non più guerra sociale, non si riutilizza infatti neanche tutto per l'esteso, ma un continuo richiamo alla guerra, come se non ci fossero più delle differenze nel linguaggio che utilizziamo noi e l'altra parte, che sono quelli rossi o neri, i neri in senso di fascisti, per cui per loro la guerra ha un altro significato. Se noi non distinguiamo il nostro linguaggio da loro, alla fine penso che perdiamo anche la nostra individualità. Andiamo pure incontro al farsi fraintendere, perché oramai questi sono termini che vengono usati anche attraverso la propaganda, ultimamente molto più fascista che comunista, perché oramai i comunisti in Italia hanno perso piede. Di quelli che sono rimasti non utilizzano più, a meno che non vai a ricercarli in quelle poche unità che sono maoiste e staliniste, non si trovano certi termini tipo onore e guerra. Fino a convincenso che comunque è un linguaggio molto, molto pesante, che proviene da una concezione della guerra, una concezione militare, di camerati o in compagno, ma come compagno lo considerano i comunisti. Ma quindi poi c'è da dire pure una cosa, che poi ogni paese ha il suo linguaggio, il suo modo di esprimersi. Lo sbaglio è quando vengono presi i termini da un altro paese, che è un altro continente addirittura, e vengono riportati in un altro, cioè tipo dalla Sud America in Europa o viceversa. Già qua tra Italia e Grecia c'è stato già qualche discussione sul termine onore, mi ricordo già all'epoca della morte di Christophoros Marinos nel 95, in cui i compagni greci uscirono con questo manifesto bruttissimo, cioè una cosa fu in cui c'era scritta questa frase: onore a Christophoros Marinos. Quindi già tra Italia e Grecia, che ci dividono veramente pochi chilometri rispetto al Cile, al Sud America in generale, già cambiano molto i termini. Figuriamoci quando sono ad utilizzare termini di gente che comunque è in continua, in continua guerra sociale, perché comunque i paesi sudamericani c'hanno un break di una decina d'anni e poi ritornano subito, ripartono subito con rivoluzione, chiamarle, usare un parolone, però comunque ci sono delle rivolte in questi paesi, e quindi forse si può capire da quelle zone un termine tipo guerra. L'onore io non lo condivido per niente, da nessuno. Oppure un'altra cosa, che un po' le avevo fatto la premessa sul primo testo, quello sulla morte di Sebastian in Cile, e questo continuo ricordare i morti, addirittura qui come dicevano i compagni, e tenere in vita i nostri morti. Cioè, insomma, qua ormai manca solo che si cominciano ad alzare i monumenti, i zombie. Cioè, penso che tenere in vita i morti è... Cioè, penso che tenere in vita i morti è un contrassenso, è un ossimorono. Più che altro di tenere in vita la loro lotta, quella che, per cui loro sono morti, allora là c'è un senso. Tenere in vita la persona, l'individuo, non c'è. Che non esiste più come individuo. Dobbiamo uscire un po' da questo culto della carogna. Io ne avevo già parlato quando c'è stato. E tornerà a breve, perché a breve sarà l'ennesimo anniversario della morte del Punky Mauri, a gennaio se ricordo bene, e quindi si ripartirà un'altra volta con tutte le lettere di condoglianze. Secondo me si dovrebbe mettere fine, ricordare sì i compagni, però non in questo modo, perché veramente si fanno passare per martiri e comunque significa farsi coinvolgere da una mentalità che alla fine è un modo di ricordare i morti che è dettata dalla religione o dallo Stato, di qualsiasi tipo di governo sia, però che ha certi scopi ovviamente per lo Stato, ricordare certi cosiddetti eroi nazionali, sia stato fascista, comunista, democratico, indifferente. E quindi non ne vedo semplicemente il senso, perché gli anarchici hanno lo stesso bisogno di ricordare in questo modo i propri morti. Tra l'altro, specialmente in Italia, non lo si fa, non mi ricordo, a parte la Federazione Anarchica Italiana, che ieri ha ricelebrato il 12 dicembre del 69, tra qualche giorno celebrerà la morte di Pinelli. Comunque, da parte degli anarchici queste cose non sono venute, eppure di compagni morti ce ne abbiamo negli ultimi anni, tipo Pinelli, ci abbiamo Luigi De Blasi, ci abbiamo Edo e Sole, ci abbiamo Mario Deiana, insomma ce ne sono un po' di compagni morti, non l'abbiamo mai fatto in Italia. Andando a fare con i morti stranieri sembra una forzatura. Sembra la moda del momento. Cioè, sì, userò un termine, un trend, forse uso un termine un po' troppo forte, provocatorio, anche se non vuole essere provato. Però è questa la sensazione. E questa era la premessa che volevo fare prima della, che potete anche rileggere, poi sarà approfondita nei prossimi tempi. Scriverò io qualcosa, così litigherò ancora con qualcun altro per giusto perché si vada oltre. In Italia si è fatti tutti nemici, si è arrivati in Europa. Ora si deve scavalcare, si deve andare oltre l'oceano. No, siamo arrivati pure in Russia, cioè, che, con i compagni russi. Quindi ormai hanno abbiamo chiamato compagno anarchico, che ancora si sono fatti sentire per Ilya Romanov. Non si è avuto risposta sulla 3-5, non ci ha fatto sapere un cazzo sulla rivendicazione dedicata a Snowden. Quindi 3-5, anzi io adesso mi ricordo che è apparsa anche una notizia su 3-5 di un sostegno ad una rivista russa che è stata chiusa in Russia, di cui sinceramente il contenuto di questa rivista e anche il sito non mi sembra proprio consono alle idee anarchiche, anche c'è già il nome autonom. C'è stato pure il fatto delle croce nere. Di croce nere, ad esempio, croce nere tempo che fa. Hanno fatto un documento allucinante che io voglio tradurre, perché in Italia non è girato. Io voglio tradurre quel documento di alcune croce nere. Sì, per far capire anche cosa sono le croci nere. Che non è sempre uguale a quella che c'è in Italia, in Spagna o da qualche altra parte, ma c'è tanta merda, chiamiamola con nome suo, tanta merda, tanta merda, perché ce n'è tanta. delle croce nere internazionali, quindi io voglio trovare quel testo e lo voglio tradurre. Poi al limite se ne discuterà tutti insieme. Beh, allora, dopo questo piccolo sproloquio, ascoltiamo un brano degli Hardwired, Ultimate Price, e poi dopo si torna qua ancora con la controinformazione. Strike the number. Salonico Grecia, sabotati 12 bancomat, il testo di rivendicazione. Lunedì 9 dicembre abbiamo condotto un sabotaggio coordinato di 12 sportelli automatici a Salonico. Con questa azione abbiamo cercato di interrompere, seppur brevemente, il normale flusso delle transazioni economiche della città. Allo stesso tempo rilanciamo la continuazione della lotta polimorfa in solidarietà con i compagni processati per le loro attività sovvertive. Siamo con gli anarchici Nikos Romanos, Andrea Dimitris Bourzoukos, Yannis Michaidilis, Dimitris Politis, Phivos Harissis, Argyris Ntalios, sotto processo per il caso della doppia rapina in Benvelto Skozani. Il compagno Tassos Theofilos, sotto processo per la rapina alla Alpha Bank sull'isola di Paros. Spiros Stratulis, che conduce dall'11 novembre uno sciopero della fame chiedendo il proscioglimento delle accuse imputategli per quanto riguarda l'organizzazione criminale degli Atene di Salonico e la restituzione dei permessi di uscita. E con Rami Sirianos, Mikhailis Ramadanoglu e Mustafa Ergin, che sono in sciopero della fame in solidarietà con Spiros e la sua lotta. Questa era per quanto riguardava la Grecia. Invece ce n'è un'altra di azione che è avvenuta a Berlino, in Germania, dove è stata attaccata una banca spagnola in solidarietà con i 5 di Barcellona. Allora, leggiamo direttamente il testo rivendicativo. La notte del 25 novembre abbiamo attaccato la banca Santander situata a Frankfurter alle Friedrichshain Berlino. L'azione è stata fatta per mandare un saluto di solidarietà ai 5 anarchici sospettati in Spagna per aver attaccato una chiesa. Abbiamo scelto la Banca Santander perché è una delle più grandi banche della Spagna e prende soldi dai prigionieri nelle carceri spagnole. Quindi tutti i soldi dei detenuti li gestisce Santander, che impone termini e condizioni di merda. Un'altra ragione per la nostra scelta è il fatto che il Banco Santander investe felicemente nella costruzione di carcere in America Latina. Noi consideriamo questo attacco un contributo anticipato alla settimana di azione di solidarietà internazionale dal 16 al 22 dicembre 2013. Inoltre mandiamo un abbraccio coloroso ai 5 in Spagna e a tutti coloro che non abbandonano il loro atteggiamento ribelle nella loro vita quotidiana. Libertà per tutti i compagni. Firmata una cerchiata. E abbiamo anche letto una notizia dalla Fiorina della Germania. A proposito, è arrivata la Germania da sottolineare. È firmata solo a cerchiata. Lo sai dire in francese? Che è arrivata la notizia, è arrivata la Germania. Ma poi chi ascolta capisce pure che leggiamo notizie che arrivano dalla Germania e che non sono sempre firmate a Federazione Anarchica Informale. Questa è arrivata dalla Germania ed è firmata con una cerchiata. Giusto, giusto. Qualcuno sappia che fine hanno fatto i francesi? Domanda. Hanno perso la Coppa dei Campioni, non lo so. No. Forse sono afflitti per qualche motivo. Sono qualificati per il mondiale. Sono qualificati per il mondiale. E quindi stanno festeggiando. Forse. Stanno festeggiando, sì. E quindi non hanno tempo. Hanno già dimenticato la disfatta di Zidane. Roland Garros si gioca in estate. Quindi, vabbè, è tutto. Non vuole essere un'offesa contro tutti i compagni francesi. Chiariamo. È un'offesa per chi offende. Non è una provocazione, lo ripeto, è un'offesa. Che ben diverso. È come dice il mio compare Marcello: chi si offende è un vedente. E queste erano le ultime due notizie per quanto riguarda la controinformazione di oggi. Ora ci ascoltiamo un brano degli Inside Treatment con il brano Claustrofobia. Poi dopo si torna qui, si danno, se c'è qualcosa di nuovo si dà, se altrimenti si danno gli indirizzi utili e l'appuntamento per lunedì prossimo. Inside Treatment. Allora, noi volevamo finire, ci volevamo togliere dalle palle, invece abbiamo trovato un'altra rivendicazione, così finiamo in bellezza. E chi si è visto si è vista, ci risentiamo lunedì prossimo. Atene, rivendicazione di responsabilità per l'attacco all'agenzia di Sufas e Associates, un'agenzia di legale per recupero crediti. Leggiamo il testo: stiamo attraversando una situazione in cui lo Stato e i padroni hanno lanciato un attacco totale contro i poveri e gli oppressori, rendendo miserabili le nostre vite e condannandoci alla povertà. Il potere mira al controllo di ogni aspetto della nostra vita. Sperimentiamo sulla nostra pelle lo smantellamento della sanità pubblica e delle istruzioni, licenziamenti e le riduzioni salariali, l'incursione delle tasse e la militarizzazione della repressione. In questo declino si è venuta ad aggiungere la messa in questione del presunto santo diritto capitalista della casa di proprietà. Ma quando il capitalismo parla di proprietà si riferisce alla proprietà dei mezzi di produzione, e questi devono appartenere nelle mani di pochi. È questo che intendono quando battezzano la casa come un investimento. Un ingranaggio significante in questo processo di concentrazione e abilitazione investimento nelle mani di pochi sono le società di recupero crediti, collection centers, per le quali ci è indifferente se sono legali o illegali. Queste aziende fanno estorsioni, terrorizzano e rilasciano ordini di pagamento restrittivo, costringendo i debitori ad ipotecare le proprie case. Quello che segue sono le aste, le più grandi di queste società. Appartiene alla famiglia di Dimitrios Tsoufas, ex ministro e presidente del Parlamento. Come poteva infatti mancare da questo business lucrativo e parassitario personale politico del paese? Ed è proprio questa azienda che ha la sua sede nella zona di Tvaros, sulla via 25 marzo 7, non lo so perché 7, forse... Via 25 marzo numero 7. Numero 7 dovrebbe essere. Che abbiamo scelto di attaccare nella sera di martedì 12/10/2013. Forse secondo me è 10 ottobre, è 10 dicembre, non è, è 10/12/2013. Stiamo leggendo da un altro sito, stiamo leggendo da Contrainfo. A parte l'ovvio simbolismo politico, questo nuovo attacco costituisce un atto di dignità, di solidarietà sociale e di classe. Un atto di resistenza da e per tutti noi che sperimentiamo quotidianamente la violenza dei padroni, un'azione che fa parte della nostra lotta complessiva contro lo Stato e il capitale. Non dimentichiamo le migliaia di nostri concittadini che, piegati sotto il peso delle barbarie dello Stato e del capitale, sono spinti al suicidio. Non perdoniamo nessuno che abbia contribuito a questo risultato. Alziamo i pugni a coloro che continuano a lottare per la rivoluzione sociale dentro e fuori dalle celle della democrazia. Anarchici, anarchiche. Stavolta l'hanno scritto per intera. Poi c'è un post scritto: 1. È la nostra scelta politica di non entrare in conflitto con i dipendenti, comprendiamo le condizioni coercitive che possono portarli a questo tipo di lavoro, ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte al ruolo che abbiano assunto nell'attacco contro la nostra classe. Quello che merita è il rifiuto e l'isolamento sociale. La casa per noi appartiene a chi ci risiede e soddisfa i propri bisogni primari, fuori da ogni senso di proprietà. Rispondiamo chiaramente che tutto ciò che ci interessa è la salvezza delle case dei piccoli proprietari. Vogliamo dire qualcosa? Questa cosa è scritta da anarchici e anarchiche. Volevo solo aggiungere che c'è anche un video allegato che potete guardare su YouTube. YouTube, lo potete vedere anche poi più tardi su Radiazione. Ecco, se vi interessano, ecco, per guardare questi video che spesso vengono anche chiamati Porn Riot, per chi ha questo piacere di guardarsi i video dei Riots comodamente dalla poltrona di casa propria. Si fa pure su Facebook la rivoluzione, si fanno gli scontri su Facebook. Perché no, anche su YouTube? Sì, fa, basta che fai amicizia con Cellerino, col. E poi inizi a fare la guerra, non lo so, si gioca a scuola, si gioca a tessette, si gioca a dama, a scacchi, non lo so. Allora, sperimentate. parte i deliri che stiamo finendo e quindi siamo felici di toglierci da coglioni. Questa firma anarchici anarchiche non lo dico più, del plurale, forse da altre parti si dice diversamente, quindi lasciamolo così. Qua siamo tutti anarchici. C è plurale e non è. Allora, avevo trovato una cosa che sui concittadini, sui suicidi, coloro che si suicidano perché hanno. Ma come ad esempio mi ricordo che anche in Italia si sono suicidati industriali perché non hanno pagato le tasse. Cioè, oltre agli industriali, capi di ditte che non pagano le tasse, i commercianti perché hanno chiuso, cioè non capisco perché solidalizzare con queste persone che sono suicidate, anzi si sono levati insomma da questo mondo volontariamente, ci hanno fatto un piacere. Si sono suicidate pure persone comuni, però cioè questo no, siccome non è la persona, il cittadino che non è proprietario di una ditta o un commerciante e si suicida davanti a una cartella che quella in Italia è Equitalia, cioè a me non me ne frega un cazzo. Perché? Perché quella persona che si è tolta dal cazzo aveva la dignità sotto la suola delle scarpe, quindi cioè onestamente io non posso andare a solidarizzare con uno che invece di contrattaccare, perché cioè tra la mia vita e la tua vita io preferisco togliere la tua di vita, non la mia. Infatti tra distruggere e autodistruggere, il fatto che si vive in un mondo di merda non significa che poi uno si toglie la vita lasciando in vita il pezzo di merda che poi causerà altre morti, altre indicazioni come è successo in Italia. Quindi come dicevano i latini, mort tua vita mea. E quindi chi si è ammazzato per ha dato vita a questi pezzi di merda che c'hanno, che detengono le proprietà su queste aziende di recupero crediti, facendo il contrario può essere che sì, togliendosi la vita vuol dire arrendersi e dire e automaticamente mandare il messaggio: sono stato sconfitto, voi avete vinto. E poi un'altra cosa, la nostra scelta politica di non entrare in conflitto con i dipendenti che sto cazzo, perché i dipendenti delle agenzie di recupero crediti sono dei pezzi di merda, diciamolo chiaro e tutto, sono degli avvoltoi, sono dei pezzi di merda, gente che mangia, prende il salario trascrivendo le cartelle, le multe e tutto, è gente che non ti guarda in faccia, quindi il conflitto è bello aperto anche con i dipendenti o proprietari, quelle come nella banca, perché qua alla fine è pure la banca, no? C'è il capo, il direttore della banca, gli altri sono i poveri banchieri, sono dipendenti, oppure all'asalto nucleare, il pezzo di merda di Adinoffier, e quelli che costruiscono sono poveri pezzi di merda alla stregua di Adinoffier, allo stesso livello. Chi sceglie quella via lo fa per scelta propria, non perché è stato costretto, lo fa per fare cane mangia cane, quindi c'è chi costruisce armi, chi lavora in un'industria dove si costruiscono le armi ha la propria responsabilità nella costruzione delle armi. Il fatto che sia operaio non cambia. Perché senza di questi operai le armi non sarebbero costruite. No, infatti. Vabbè, quindi per cui penso che abbiamo dato una risposta anche a questa nuova. Subito, arrivata subito, l'abbiamo fatta a fette. Vabbè, ma siamo. Cioè, non posso sentir dire non volevamo entrare in conflitto con i dipendenti in un'agenzia di recupero crediti, ma spaccagli la faccia. E vai, con questo ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione @dc.org per chiunque vuole mandare mail, comunicati, scritti, richieste di fonti sugli articoli, mi raccomando, invito anche alle ditte che fanno microspie a mandarci informazioni. Se ci mandate nei cartoni le microspie, almeno noi le guardiamo, le descriviamo anche meglio. Poi dopo, facciamo pubblicità in questo modo. Dopo, senza far sapere dagli sbirri, le distruggiamo, quindi facciamo una collaborazione. Questa è una collaborazione. Sì, facciamo la prova qua direttamente. Quindi radiazione.org, invece per il blog radiazione.noblog.org, da domani potete riascoltarvi il delirio alla diretta di oggi. Invece lunedì prossimo, che era il 16, abbiamo detto, il 16 dicembre, ricordo che c'è la diretta d'azione con informazione, musica e lettura di Vera Gus con il libro di Valerio Evangelisti sui pirati, e poi anche il codino di Nazero 13, che oramai si è infilato nella lettura del lunedì. Si apre con Nazero 13 e poi si continua con Vera Gus, la controinformazione e la musica, ovviamente. Poi un'altra cosa che volevo dire: prossimamente forse ci sarà qualche puntata anche sulla musica, qualche diretta sulla musica, lo so, ve ne può fregare un cazzo, però a qualcuno che magari stufo di sentire le nostre voci, il prossimo pezzo dal nostro prossimo CD, i gruppi punk che dal palco fanno il nostro prossimo pezzo dal nostro prossimo CD, tra 3 CD faremo questo pezzo qua, non dicono più cazzo queste band punk, non ci hanno contenuto proprio per niente, si definiscono narcopunk e poi non ci hanno cazzo da narcopunk. Qualcuno qui a Napoli se ne va in giro a bere con i militari, qualche mini pony con Cristina Rosa va in giro con i militari a bersi le birre, a fumarsi le canne. Vabbè, queste sono gli anarcho-poser. Di questo si vuole parlare in una prossima idea, forse molto probabilmente si farà durante le feste di Natale, non lo so, o durante le feste di Natale o dopo si farà questa diretta e si parlerà di musica, di musica. Poi se ci sarà qualche notizia di controinformazione si darà ugualmente, però soprattutto di musica, di anarcho-punk. Allora, abbiamo dato la mail, il blog, la radio radiazione.listentumaradio.com, lo ricordo, o attraverso il link o attraverso il banner che trovate in homepage sulla blog di Radiazione. Ora vi lascio con una band francese che non so come si pronuncia, Poupée Fabrique, entrare al Betrayal, io subito vado sul sodo e sullo schifo, Poupée Fabrique, Betrayal, con questo vi saluto e l'appuntamento a lunedì prossimo. chi si offende è un fedente. Controinformazione, letture, provocazioni, musica.